ser bukesh mangiava se solo mare ricreanza un calor di sud tutto di un ducore shama wanyuna shama nanans nana servono i terrorisa terror rebel sound shama mo ha ha cash rules everything around me queen get the money dollar dollar bill yo shama faccia questo stile rilassato molto riso nana stone e come shama nanans ci chissà quattro cane che accomannano e fascia nella babuffa e nuca sta paranza facimi con da tutto di fresce la domenica ed a mezzo lunedì è problema stanno a tutti vanno dotta a giro e dotta volta ci non capisce buono mo tu dica un'altra volta la porto se vacanda non bacimo moni moni ci sta male ci sta canda ogni una aprita l'ecchia da fuori faccia fredda udic che stavolta udic sopra beat è mito che tu potè gridare potè fa tutto quello che vuoi ma da sta situazione non ci cangia proprio mai niente di un gap che udic mo sicura che come tutta gira chi da tua mano non gula non ci si panzanna piuttosto mo fai una e vide ci fai buna che sia la soluzione come una rivoluzione momento sta canzone e bamba pu volume pure senza terrisa gli socco proprio buna money money money mo terrisa non è sonna zero dollar bill zero euro zero pound money money money fili shiny microphone we don't need no money but just zero rebel sound cash rules everything around me cream get the money dollar dollar bill yo cash rules everything around me cream get the money dollar dollar bill yo senza soldi amari rimasti ancora là da capire tipil tesorette e puttananza in tu parlare stipendi esorbitanti di deputato o senatori e l'uresto degli cristiani va mendicando a tutte le ore non c'è più una lira sento tiri di villani li vidi casi con un po' ci messo macanti qui di mani ha ragioni Uba the reason on the stone sta facimo la fame non mi pondi microfono ha spicciato un itun mesi non stai manco a mezzo mesi mo vuoi pitica la colpa non travote di la crisi ma quali crisi e crisi la questione è molto easy le vizi ti sta mangiano senza cubati a spesi lassa botte ripretesi innanzi consentito frisi con lui you know bevino e pummitori di li pesi di la panza lassa pesi e palestre si costosi fatti una bella fuciuta di lichiane lo marchesi calorosi oggi sposi cadi nenchio non li chiesi bello si un sacramento ma la pira sta alla base i ristoranti si lussuosi non son tu peccaminosi tanto più perdona tutti di li preta li mafiosi notti mia tutti stabusi niti capo pisticosi ci la poscia poi si rompi noi è facili cucosi vanni mia non balli scesi cacino tutti li musi tacchi con lo culo in terra ci la capo non la usi money money money motor risa non è sonna zero dollar bill zero euro zero pound money money money fili shiny microphone we don't need no money but just zero rebel sound motor risa non è sonna dollar non è sonna money non è sonna do la senuta cash rules everything around me cream get the money dollar dollar bill yo cash rules everything around me cream get the money dollar dollar bill yo cash rules everything around me cream get the money dollar dollar bill yo cash rules everything around me cream get the money dollar dollar bill yo guarda che se ti prendo ti faccio passare la voce sì, quelle cambiate chi non vuole i suoi soldi che può fare ci devo parlare non lo so ma come ti c'è dito mi deve 20 dollari aspettalo con la mazza da gonfialo perso. Del botte spaccagli la testa che non lo sai gonfiare sono Paolo questi i consigli che gli date la volete piantare brutte gorille e allora daglielo tu qualche buon consiglio fallo svegliare un po' a mangiare non li stare a sentire io vado a mangiare da Gino buon salute che succede? C'è quell'uomo, l'hai visto, che mi deve 20 dollari. Sono due settimane e ogni volta che mi vede cerca di scappare. Sì. Cominciano a girarmi le palle, gli do una lezione, che dici? Ma che t'è preso? Cos'è che ti dico sempre? Fare del male non è una soluzione. Prima di tutto, è amico tu? No, mi sta antipatico. Ti sta antipatico? Beh, eccola qui la risposta. Con 20 dollari te lo sei levato da torto. Giusto, così non ti dà più fastidio. Non ti chiede più un prestito. È uscito dalla tua vita con 20 dollari, è un affare. Tu hai sempre ragione.